a casa nella prateria. Il giorno seguente Laura e Mary si alzarono prima che sorgesse il sole. Fecero colazione con polenta di mais e sugo di gallina, poi corsero ad aiutare mamma a lavare i piatti. Papà stava caricando tutto il resto sul carro e attaccando petto e patti. Al sorgere del sole, il carro attraversò la prateria. Non c'era più il sentiero. Petto e patti si facevano strada tra l'erba alta e il carro lasciava dietro di sé solo le tracce delle sue ruote. Prima di mezzogiorno papà fece «Oh!» e il carro si fermò. «Ci siamo, Caroline! È qui che costruiremo la nostra casa!» Laura e Mary scavalcarono la mangiatoia e scesero in fretta a terra. Tutto intorno non c'era altro che prateria che si estendeva fino a incontrare il cielo. Poco lontano, verso nord, il ruscello scorreva tra le creste del promontorio, solcando la prateria. Si vedevano le cime di alcuni alberi di un verde più scuro e dietro di essi, sul promontorio, l'erba della prateria. Lontano, verso est, si stendeva una fila spezzettata di diverse sfumature di verde. Papà disse che lì c'era il fiume. «È il fiume Verdigris», disse indicandola la mamma. Mamma e papà cominciarono subito a scaricare il carro. Presero tutto ciò che conteneva e lo ammucchiarono a terra. Poi presero il telo che ricopriva il carro e coprirono il mucchio. Alla fine tolsero persino la cassa del carro mentre Laura, Mary e Jack stavano a guardare. Il carro era stato la loro casa per tanto tempo, ora non rimanevano che le quattro ruote e la struttura che le collegava tra loro. Petto e patti erano ancora attaccati. Papà prese un secchio e l'ascia e, seduto sullo scheletro del carro, si allontanò, inoltrandosi nella prateria fino a scomparire dalla loro vista. «Dove va, pa?» chiese Laura. E mamma risponde: «A prendere dei tronchi al ruscello». Era strano e inquietante ritrovarsi senza carro nel bel mezzo della prateria. La terra e il cielo sembravano troppo vasti e Laura si sentiva piccola. Avrebbe voluto nascondersi e rimanere immobile tra i fili d'erba, come un tetraone di prateria. Ma non lo fece. Aiutò mamma, mentre Mary, seduta sull'erba, badava la piccola Carrie. Per prima cosa Laura e mamma fecero i letti sotto il telo che ricopriva il carro, poi mamma sistemò le casse e i pacchi mentre Laura strappava l'erba davanti alla tenda. Così ebbero spazio per il fuoco, ma non potevano accenderlo finché papà non fosse tornato con la legna. Non c'era nient'altro da fare. Così Laura si mise un po' a esplorare la zona. Non si allontanò dalla tenda, ma trovò uno strano piccolo solco in mezzo all'erba. Sarebbe stato impossibile notarlo guardando sulla superficie ondeggiante dell'erba, ma quando ti ci avvicinavi, eccolo lì, un sentiero largo, dritto, compatto tra i fili d'erba che sboccava nell'immensa prateria. Laura ne percorse un pezzetto, procedendo lentamente, sempre più piano. Poi si fermò ed ebbe una strana sensazione. Così si voltò e tornò velocemente indietro. Quando si guardò alle spalle non vide nulla, ma si affrettò comunque. Quando papà tornò con il suo carico di tronchi, Laura gli raccontò del solco. Papà disse di averlo visto il giorno prima. «È un vecchio sentiero», spiegò. Quella notte, vicino al fuoco, Laura chiese di nuovo quando avrebbe visto un piccolo pelle rossa, ma papà non seppe rispondere. Disse che non si possono vedere gli indiani a meno che essi non vogliano essere visti. Lui ne aveva visti da ragazzo nello stato di New York, ma Laura non ne aveva mai visti. Sapeva che erano uomini selvaggi dalla pelle rossa e che le loro asce si chiamavano Tomahawk. Papà sapeva tutto sugli animali selvatici, quindi doveva saperne anche sugli uomini selvaggi. Laura pensava che un giorno le avrebbe mostrato un pelle rossa, proprio come faceva con cerbiatti, piccoli orsi e lupi. Per diversi giorni papà trasportò tronchi, li divise in due pile, una per la casa, una per la stalla. Nel tratto che percorreva su e giù dal ruscello cominciò a formarsi una strada. E la notte, Pet e Patti, legati al loro picchetto, mangiavano l'erba finché non fu corta e folta intorno alle pile di tronchi. Papà cominciò a costruire la casa. Ne calcolò passi la misura sul suolo, poi con la vanga scavò un solco stretto e poco profondo sui due lati. Fece rotolare nel solco due dei tronchi più grandi. Erano tronchi solidi e forti, le fondamenta destinate a sorreggere la casa. Poi papà scelse altri due tronchi grandi e robusti e li sistemò alle estremità dei precedenti, in modo che formassero una cornice quadrata. Con l'ascia fece uno scanso vicino all'estremità di ciascun tronco, mentre tagliava il tronco che vi appoggiava sopra, con lo sguardo misurava quelli che fungevano da fondamenta e intagliò gli scansi in modo che vi si potessero incastrare. Quando terminò il lavoro, fece rotolare il tronco intagliato e gli scansi andarono a incastrarsi. Le fondamenta della casa erano fatte, erano alte quanto un tronco. Le prime due parti erano conficcate nel terreno per metà, le altre erano saldamente poggiate a terra. Agli angoli dove si incrociavano, gli intagli permettevano loro di incastrarsi con uno spessore non superiore a quello di un tronco e le due estremità sporgevano oltre gli incastri. Il giorno seguente papà cominciò a costruire le pareti. Posava un tronco da un lato, intagliando nelle estremità, in modo che si incastrasse con i precedenti, poi ripeteva la stessa operazione dall'altro lato. Ora la casa era alta quanto due tronchi. I tronchi si incastravano saldamente l'uno nell'altro, ma nessun tronco è perfettamente dritto e tutti sono sempre più spessi da un lato che dall'altro. E rimanevano così delle fessure lungo tutte le pareti, ma non importava perché papà le avrebbe sistemate. Papà innalzò da solo la casa fino all'altezza di tre tronchi. Poi mamma lo aiutò. Lui sollevava un tronco lungo il muro, poi mamma lo teneva mentre lui sollevava l'altra estremità. Papà stava in piedi sul muro per intagliare i solchi e mamma lo aiutava a far rotolare il tronco mentre lui lo sistemava al posto giusto perché formasse un quadrato perfetto. Così, tronco dopo tronco, innalzarono i muri finché non furono abbastanza alti e Laura non poteva più arrivare in cima. Era stanca di guardare papà e mamma che costruivano la casa, così andò a esplorare un po' nell'erba. All'improvviso sentì papà urlare: "Lascialo, spostati!" Un enorme tronco stava scivolando e papà cercava di tenerne l'estremità per evitare che cadesse con tutto il suo peso addosso a mamma. Non ci riuscì. Il tronco cadde e mamma si accasciò a terra. Laura la raggiunse in fretta quasi quanto papà. Papà era in ginocchio e chiamava mamma in tono spaventato. Lei mormorò: "Sto bene." Il tronco le era caduto su un piede. Papà lo sollevò e mamma tirò fuori il piede. Lui lo tastò per vedere se c'erano ossa rotte. "Muovi il braccio," disse. "Ti fa male la schiena? Riesci a girare la testa?" Mamma mosse il braccio, girò la testa. "Oh, grazie a Dio," disse lui aiutandola a sedersi. Lei ripeté: "Sto bene, Charles, è solo il piede." Papà le tolse in fretta la calza e la scarpa. Tastava il piede, muovendo la caviglia e tutte le dita. "Ti fa molto male?" chiese. Il volto di mamma era pallido. A denti stretti rispose: "Non molto." "Niente di rotto," disse papà, "è solo una brutta storta." Mamma disse allegramente: "Bene, una storta si sistema in fretta, non preoccuparti, Charles." "Oh, è stata colpa mia," disse papà, "avrei dovuto usare dei binari." Aiutò mamma a raggiungere la tenda, accese il fuoco e fece scaldare dell'acqua. Quando l'acqua raggiunse una temperatura accettabile, mamma ci mise dentro il piede gonfio. Era un miracolo che il piede non fosse rimasto schiacciato, tutto merito di un piccolo buco nel terreno. Papà continuò ad aggiungere acqua calda nella tinozza in cui era immerso il piede di mamma. Il piede era rosso per via del calore e la caviglia gonfia cominciò a diventare viola. Mamma tirò fuori il piede dall'acqua e si legò delle strisce di tessuto intorno alla caviglia. Ce la faccio, disse. Non poteva infilarsi la scarpa, ma si legò altri pezzi di tessuto attorno al piede. E si alzò zoppicando. Cenò come al solito, solo più lentamente, ma papà disse che non poteva aiutarlo a costruire la casa finché la caviglia non fosse guarita. Costruì dei binari. Erano lastre lunghe e piatte, un'estremità appoggiava a terra e l'altra sul muro di legno. Non avrebbe sollevato altri tronchi, lui e mamma li avrebbero fatti rotolare lungo i binari. Ma la caviglia di mamma non guariva. Quando tolse la benda quella sera per metterla a bagno nell'acqua era tutta viola e nera e verde e gialla. La casa avrebbe dovuto aspettare. Poi, un pomeriggio, papà arrivò fischiettando lungo la stradina che portava al torrente. Era andato a caccia e non lo aspettavano così presto. Appena le vide gridò: "Buone notizie! Avevano un vicino, a soli 3 chilometri di distanza dall'altra parte del ruscello." Papà lo aveva incontrato nei boschi. Si sarebbero aiutati a vicenda e tutto sarebbe stato più facile. "È scapolo," disse papà, "e ha detto che tu e le bambine avete bisogno di un tetto prima di lui, quindi per cominciare mi aiuterà a costruire la nostra casa. Poi, quando i suoi tronchi saranno pronti, io andrò ad aiutarlo con la sua." Non avrebbero più dovuto aspettare per costruire la casa e mamma non aveva più bisogno di lavorarci. Cosa ne pensi, Caroline? Chiese papà allegramente. Va bene, Charles, sono contenta, rispose lei. Il mattino dopo il signor Edwards arrivò presto. Era alto, magro e bruno. Si inchinò davanti a mamma e la chiamò educatamente signora. A Laura disse di essere un gatto randagio del Tennessee. Indossava stivali alti, un maglione lacero, un cappello di pelle di procione e sputava il tabacco masticato più lontano di quanto Laura avrebbe potuto immaginare. Riusciva anche a centrare qualsiasi bersaglio. Laura provava e riprovava, ma non riusciva mai a sputare lontano quanto il signor Edwards. Lavorava velocemente. In un giorno lui e papà avevano costruito pareti dell'altezza che papà desiderava. I due uomini scherzavano e cantavano mentre le loro asce facevano volare schegge di legno. In cima alle pareti installarono uno scheletro del tetto fatto di aste sottili. Poi, nel muro che dava verso sud, tagliarono una grande apertura rettangolare per la porta. E in quelli a est e a ovest i riquadri per le finestre. Laura era impaziente di vedere l'interno della casa. Non appena la grande apertura fu terminata, corse dentro. Tutto era strisce lì. Strisce di luce venivano dalle fessure nel muro a ovest e strisce di ombra erano proiettate dai pali sopra la sua testa. E strisce di luce e ombra erano sulle sue mani, sulle braccia e sui piedi scalzi di Laura. E attraverso le fessure, tra i tronchi, poteva vedere strisce di prateria. Il dolce profumo della prateria si mescolava con quello del legno appena tagliato. Poi, mentre papà tagliava i tronchi per fare la finestra nel muro di ovest, pezzi di sole entrarono in casa. Quando ebbe finito, c'era un grande blocco di luce sul pavimento. Intorno alle aperture della porta e delle finestre, papà e il signor Edwards inchiodarono sottili lastre di legno sulle estremità dei tronchi tagliati e la casa era finita. Mancava solo il tetto. I muri erano solidi e la casa era grande, molto più grande della tenda. Era una bella casa. Il signor Edwards disse che sarebbe tornato alla sua tenda, ma papà e mamma gli chiesero di restare per cena. Mamma aveva preparato una cena particolarmente buona perché avevano un ospite. C'era coniglio stufato con fagottini di farina bianca al sugo di carne, pane di mais caldo aromatizzato al lardo, melassa da mangiare con il pane, e poiché avevano ospiti non utilizzarono la melassa per il caffè. Mamma tirò fuori un pacchettino di carta con dentro dello zucchero marrone chiaro che aveva acquistato in negozio. Il signor Edward disse di aver gradito la cena. Poi papà tirò fuori il violino. Il signor Edwards si stese a terra per ascoltare e papà suonò e cantò per Laura e Mary la loro canzone preferita. Laura l'amava così tanto perché la voce di papà diventava sempre più profonda in quella canzone. Oh, sono il re dei gitani, vado e vengo come mi par, tiro giù la mia cuffia da notte e tengo il mondo tra le mani. Poi la sua voce divenne sempre più grave, più profonda di quella di una vecchia rana. Oh, sono il re dei gitani! Risero tutti. Laura non riusciva più a smettere. Oh, cantala ancora, pa, cantala ancora! Urlò Laura prima di ricordare che i bambini devono essere visti e non sentiti. Quindi si zittì. Papà continuò a suonare e ogni cosa intorno cominciò a danzare. Il signor Edwards si appoggiò su un gomito, poi si sedette, infine si alzò e si mise a ballare. Danzò a grandi balzi alla luce della luna, mentre il violino di papà suonava spensierato. Pestava i piedi a terra, mentre Laura e Mary tenevano il ritmo con le mani e con i piedi. Sei il violinista più incredibile che io abbia mai conosciuto, gridò il signor Edwards pieno di ammirazione. Non smise di ballare e papà non smise di suonare. Suonò Malerba, Il viaggiatore dell'Arkansas, La lavandaia irlandese e La cornamusa del diavolo. La piccola Carrie non riusciva a dormire con tutta quella musica. Sedeva in braccio a mamma guardando il signor Edwards con gli occhi spalancati, batteva le manine e rideva. Persino il fuoco danzava. E tutto intorno danzavano le ombre. Solo la casa nuova se ne stava ferma e silenziosa nel buio finché la grande luna venne a illuminare i suoi muri grigi e i truccioli gialli tutti intorno. Il signor Edwards disse che doveva andare. C'era parecchia strada per arrivare al suo accampamento dall'altro lato del bosco, oltre il ruscello. Prese a Laura, Mary e mamma. Disse che era uno scapolo solitario, ma che aveva apprezzato molto quella serata di vita in famiglia. Suona, Ingalls, disse, finché non arrivo in fondo alla strada. Scese lungo la strada, che portava al ruscello e poi scomparve, mentre papà suonava e insieme a lui signora Edwards e Laura cantavano a squarciagola: Il vecchio Nantucket era un vecchio gentil, si lavava la faccia nella padella, si pettinava con la ruota del carro, morì di un mal di denti nel calcagno. Fuori dai piedi, vecchio Nantucket, è troppo tardi per la cena è finita, i piatti lavati, rimane solo un pezzo di zucca. Il vecchio Nantucket andò in città, in groppa a un mulo portando un segugio. In tutta la prateria risuonavano la voce grossa di papà e quella piccola di Laura, e dal ruscello si sentì appena l'ultimo grido del signor Edwards. Fuori dai piedi, vecchio Nantucket, è troppo tardi per la cena. Quando il violino di papà si fermò, non potevano più sentire il signor Edwards, solo il vento che soffiava nell'erba della prateria. La luna, grande e gialla, solcava il cielo sopra di loro. Il cielo era così pieno di luce che non si vedeva nemmeno una stella e la prateria era avvolta in morbide ombre. Poi, dal bosco vicino al ruscello, un usignolo cominciò a cantare. Tutto era silenzio. Si udiva solo l'usignolo. L'uccello cantò ancora e ancora. Il vento fresco si muoveva sopra la prateria e la canzone risuonava limpida sul fruscio dell'erba. Il cielo era come una scodella di luce rovesciata sopra la terra piatta e nera. La canzone finì. Nessuno si mosse né parlò. Laura e Mary erano silenziose, papà e mamma sedevano immobili. Solo il vento scuoteva l'erba facendola frusciare. Poi papà appoggiò il violino sulla spalla e sfiorò dolcemente le corde con l'archetto. Le note sembravano gocce d'acqua in mezzo al silenzio. Dopo una pausa papà cominciò a suonare la canzone dell'usignolo. L'usignolo rispose, poi riprese a cantare. Cantava insieme al violino di papà. Quando le corde rimanevano in silenzio, cantava l'usignolo. Quando si fermava, il violino lo richiamava, invitandolo a ricominciare. L'uccello e il violino parlavano tra loro nella fredda notte sotto la luna. L'insediamento. I muri sono pronti, disse papà a mamma quella mattina. Faremo meglio entrare a vedere come ce la caviamo in attesa del pavimento e delle rifiniture. Devo costruire la stalla il più in fretta possibile, così anche Pet e Patty saranno tra quattro mura. La notte scorsa sentivo i lupi ululare da tutte le parti, sembravano anche abbastanza vicini. Beh, hai la pistola, io non mi preoccuperei, disse mamma. Sì, c'è Jack, ma mi sentirei molto meglio sapendo che tu e le bambine siete al sicuro tra quattro mura. Secondo te, perché non abbiamo visto nessun indiano? Chiese mamma. Oh, non lo so, rispose papà distrattamente. Ho visto i loro accampamenti sul promontorio, credo siano a caccia in questo momento. Poi mamma chiamò: Sveglia, bambine! Laura e Mary saltarono giù dal letto e si vestirono. Fate colazione in fretta, disse mamma, mettendo gli avanzi del coniglio nel piatto di stagno. Oggi entriamo in casa e bisogna togliere tutti i truccioli. Mangiarono in fretta, poi corsero a ripulire la casa. Andavano avanti e indietro più in fretta che potevano, riempiendosi di trucioli le gonne e ammucchiandoli vicino al fuoco. Ma ce n'erano ancora sul pavimento quando mamma cominciò a spazzarli con la scopa di rami di salice. Mamma zoppicava ancora, ma la sua caviglia slogata cominciava a migliorare. Quando ebbe spazzato il pavimento di terra, Mary e Laura l'aiutarono a portare le cose in casa. Papà era salito in cima per stendere la tela di copertura del carro sullo scheletro del tetto. La tela si gonfiò al vento, la barba di papà si scompigliò e i capelli gli si drizzarono in testa come se volessero staccarsi. A un certo punto oscillò così tanto che Laura pensò che avrebbe mollato la presa e si sarebbe librato in volo come un uccello. Ma lui fece leva con le gambe contro la parete e aggrappandosi alla tela con le mani riuscì a fissarla. Ehi tu, disse, resta dove sei e sta. Charles, disse mamma. Stava in piedi con le braccia piene di coperte e lo guardava con aria di rimprovero. Stai buona, disse papà alla tela. Perché, Caroline? Cosa credevi che stessi per dire? Oh, Charles, disse mamma, mascalzone. Papà scese dall'angolo della casa utilizzando i tronchi che sporgevano come una scala. Si passò la mano tra i capelli che si spettinarono ancora di più e mamma scoppiò a ridere. Lui l'abbracciò con le coperte e tutto. Poi guardarono la casa e papà disse: Non è male la nostra casa. Sarò felice di entrarci, aggiunse mamma. Non c'erano porte né finestre, non c'era pavimento se non la terra, non c'era tetto se non la tela, ma quella casa aveva pareti robuste e non si sarebbe mossa da lì. Non era come il carro che ogni giorno andava in un posto diverso. Staremo bene qui, Caroline, disse papà. Questa è un'ottima zona, sarei felice di rimanerci per il resto della mia vita. Anche quando sarà abitata? Chiese mamma. Anche quando sarà abitata, non importa quanti vicini avremo e quanto saranno prossimi, questa terra non sarà mai affollata. Guarda il cielo. Laura sapeva cosa voleva dire. Anche a lei piaceva quel posto. Le piaceva il cielo immenso, il vento e la terra che si estendeva a perdita d'occhio. Tutto era così libero, grande, sontuoso. All'ora di pranzo la casa era in ordine. I letti erano preparati con cura per terra, il sedile del carro e i due tronchi fungevano da sedie, il fucile di papà era appeso sopra la porta, casse e pacchi erano appoggiati ordinatamente contro i muri. Era una casa gradevole. Una luce soffusa attraversava il tetto di tela. Vento e luce entravano dalle aperture delle finestre e nelle fessure tra i tronchi delle quattro pareti brillava un po' la luce del sole. Solo il fuoco rimase fuori, al suo posto. Papà disse che avrebbe costruito un camino in casa appena possibile. Avrebbe anche tagliato delle tavole e costruito un tetto solido prima dell'inizio dell'inverno. Avrebbe posato il pavimento e costruito letti, tavoli e sedie, ma prima doveva aiutare il signor Edwards con la sua casa e doveva anche costruire la stalla per Pet e Patty. Quando avrai finito, disse mamma, vorrei uno stendipanni. Papà rise, sì, e io voglio un pozzo. Dopo pranzo attaccò Pet e Patty al carro e trasportò una tinozza d'acqua dal ruscello in modo che mamma potesse fare il bucato. Puoi lavare i panni al ruscello, disse. Le donne indiane fanno così. Se volessimo vivere come gli indiani, potresti fare un buco nel tetto per lasciare uscire il fumo e accenderemmo il fuoco in casa, rispose mamma. Gli indiani fanno così. Nel pomeriggio mamma lavò i panni nella tinozza e li stese ad asciugare sull'erba. Dopo cena sedettero per un po' intorno al fuoco. Quella notte avrebbero dormito in casa, non avrebbero mai più dormito intorno al fuoco. Papà e mamma parlarono degli amici del Wisconsin. Mamma avrebbe voluto spedir loro una lettera, ma la città di Independence distava più di 60 chilometri e nessuna lettera avrebbe potuto essere spedita finché papà non avesse intrapreso il lungo viaggio fino all'ufficio postale laggiù. Laggiù, nei grandi boschi, i nonni, le zie, gli zii e i cugini non sapevano dove fossero papà, mamma, Laura, Mary e la piccola Carrie. E lì, intorno al fuoco, nessuno sapeva cosa stesse succedendo nei grandi boschi. Non c'era modo di saperlo. Bene, è ora di andare a dormire, disse mamma. La piccola Carrie si era già addormentata. Mamma la portò in casa e la svestì, mentre Mary sbottonava il vestito e la sottogonna dietro la schiena di Laura e papà appendeva una coperta davanti all'apertura della porta. Una coperta era meglio di niente. Poi papà uscì per portare Pet e Patty vicino alla casa. Chiamò dolcemente: Vieni, Caroline, guarda la luna. Mary e Laura, sdraiate sul loro letto sul pavimento della nuova casa, guardavano il cielo attraverso l'apertura della finestra a est. Il contorno della grande luna splendente illuminava il bordo inferiore dell'apertura e Laura si sedette, guardò la grande luna salire silenziosamente nel cielo limpido. Da quel lato della casa la sua luce faceva brillare d'argento tutte le fessure tra i tronchi. Entrava dall'apertura della finestra e proiettava un quadrato di luce tenue sul pavimento. Era così chiaro che Laura vide perfettamente quando mamma alzò la coperta che fungeva da porta ed entrò. Allora Laura si coricò in fretta prima che mamma la vedesse ancora seduta sul letto. Sentì Pet e Patty nitrire gentilmente verso papà. Poi il rumore sordo dei loro zoccoli gli entrò nelle orecchie attraverso il pavimento. Pet, Patty e papà stavano venendo verso casa e Laura sentiva papà cantare: Vai, luna d'argento, spargi la tua luce nel cielo. La sua voce era un tutt'uno con la notte, la luce della luna, l'immobilità della prateria. Si avvicinò all'ingresso cantando: Alla luce pallida argentea della luna. Mamma disse sottovoce: Silenzio, Charles, o sveglierai le bambine. Così papà entrò in silenzio. Jack, che lo seguiva da vicino, si sdraiò davanti all'ingresso. Ora erano tutti tra le solide mura della loro nuova casa, comodi e al sicuro. Laura, assonnata, sentì un lupo ululare lontano, nella prateria. Un leggero brivido le percorse la schiena, un attimo prima di sprofondare nel sonno.